preparò Bloom una colazione per un gentile? Versò in due tazzine due cucchiai rasi, quattro in tutto, di cacao solubile Epps e procedette secondo le istruzioni per l'uso stampate sull'etichetta, a ciascuna aggiungendo, dopo il tempo sufficiente per l'infusione, gli ingredienti prescritti per la diffusione nella maniera e nella quantità prescritte. Quali segni supererogatori e speciali di ospitalità dette l'ospitante all'ospitato? Rinunciando al suo diritto simposiarcale sulla tazza salvabaffi di porcellana, imitazione Crown Derby a lui donata dall'unica figlia Millicent, Millie, egli le sostituì una tazza identica a quella dell'ospite e servì in via straordinaria all'ospite e in misura ridotta a se stesso la panna viscosa ordinariamente serbata per la colazione di sua moglie Marion, Molly. Ne fu l'ospite conscio e riconobbe egli questi segni d'ospitalità? La sua attenzione vi fu giocosamente richiamata dal suo anfitrione ed egli li accettò seriamente, mentre bevevano in silenzio gioco serioso il prodotto in serie di Epps, il cacao creato. Ci furono segni di ospitalità che egli contemplò ma soppresse riservandoli a un'altra persona e a se stesso in occasioni future. Per completare l'atto iniziato, la riparazione di una fessura della lunghezza di un pollice e mezzo nel lato destro della giacchetta dell'ospite, un dono all'ospite di uno dei quattro fazzoletti da signora, se e quando fossero riconosciuti in stato di essere donati. Chi beve più velocemente? Bloom, avendo un vantaggio di 10 secondi alla partenza e sorbendo dalla superficie concava di un cucchiaio, lungo il cui manico era condotto un costante flusso di calore, tre sorsi contro uno del suo oppositore, sei contro due, nove contro tre. Quali processi cerebrali accompagnarono l'iterazione di questo atto? Concludendo, in seguito a un esame, ma erroneamente, che il suo silenzioso compagno fosse impegnato in una composizione mentale, egli rifletté sui piaceri derivanti dalla letteratura istruttiva, anziché da quella amena, poiché egli stesso si era rivolto più di una volta alle opere di William Shakespeare per la soluzione di problemi difficili della vita, immaginaria o reale. Ne aveva egli trovato la soluzione? Ad onta di un'attenta e reiterata lettura di certi brani classici, con l'aiuto di un glossario, aveva derivato dal testo una imperfetta convinzione, non corrispondendo le risposte su tutti i punti. Quali versi concludevano il primo tentativo poetico personale compiuto da lui, poeta in potenza all'età di 11 anni, nel 1877, in occasione dell'offerta di tre premi di 10, 5 e 2 scellini e mezzo rispettivamente, da parte del Shamrock, giornale settimanale? L'ambizione co di sbirciare i miei versi un dì stampati, inver mi fa sperare che troverete un posto sul giornale. Se ciò avverrà, stampate con l'inchiostro in calce il nome e cognome del vostro Messer Leopold Bloom. Trovò egli quattro forze che lo separassero dal suo ospite temporaneo: il nome, l'età, la razza, la fede. Quali anagrammi aveva egli fatto sul suo nome in gioventù? Leopold Bloom, Elpod Bomol, Mol do Pelob, Bollo Pedom, Old Ollebo, MP. Quale acrostico sull'abbreviazione del suo nome di battesimo aveva egli, poeta cinetico, mandato a Miss Marion, Molly Tweedy, il 14 febbraio del 1888? Poeti e aedi hanno cantato in rima, osannando alla musica divina. Lasciamoli inneggiar sera e mattina. Di tutto a me più caro è questo invio. Oh, diletta sei mia, il mondo è mio. Che cosa gli impedì di completare una canzone di circostanza, musica di R.G. Johnston, sugli eventi del passato o le caratteristiche degli ultimi anni? intitolata Se Brian Boru tornasse a vedere ora la vecchia Dublino, commissionata da Michael Gunn, concessionario del teatro Gaiety, 46, 47, 48, 49, South King Street, e da introdurre nella sesta scena, La Valle dei Diamanti, della seconda versione, 30 gennaio 1893, della grande pantomima natalizia Sinbad il marinaio, produzione di R. Shelton, 26 dicembre 1892, testo di Greenleaf Whittier, scenografia di George A. Jackson e Cecil Hicks, costumi delle signore e signorina Whelan, eseguita il 26 dicembre 1892, sotto la supervisione personale della signora Michael Gunn, balletti di Jessie Noor, arlecchinata di Thomas Otto, e cantata da Nellie Bowerist, protagonista, in primo luogo un'oscillazione tra avvenimenti di interesse imperiale e altri di interesse locale, il giubileo di diamante anticipato della regina Victoria, nata 1820, salita al trono 1837, e l'apertura posticipata del nuovo mercato municipale del pesce. In secondo luogo, la tema di un'opposizione dei circoli estremisti sulla questione delle rispettive visite delle loro altezze reali, il duca e la duchessa di York, reali, e di Sua Maestà il re Brian Boru, immaginario. In terzo luogo, un conflitto tra l'etichetta professionale e l'emulazione professionale riguardo alla recente erezione della Grand Lyric Hall sulla riva Burg e del Theatre Royal in Hawkins Street. In quarto luogo, la confusione risultante da compassione per l'espressione non intellettuale, non politica, non circostanziale del volto di Nellie Bowerist e da concupiscenza provocata dalla rivelazione da parte di Nellie Bowerist di bianchi effetti di biancheria intima non intellettuali, non politici, non circostanziali, mentre essa, Nellie Bowerist, si trovava in essi effetti. In quinto luogo, le difficoltà di scegliere musica appropriata e allusioni umoristiche dal libro degli scherzi, 1.000 pagine, ognuna una risata. In sesto luogo, le rime omofone e cacofone associate ai nomi del nuovo sindaco Daniel Talon, del nuovo sceriffo Thomas Pyle e del nuovo procuratore generale Dunbar Plunkett Barton. Quale relazione esisteva tra le loro età? 16 anni prima. Nel 1888, quando Bloom aveva l'età attuale di Stephen, Stephen aveva 6 anni. 16 anni dopo, nel 1920, quando Stephen avrebbe avuto l'età che aveva ora Bloom, Bloom ne avrebbe avuti 54. Nel 1936, quando Bloom ne avrebbe avuti 70 e Stephen 54, le loro età, inizialmente in rapporto di 16 a 0, sarebbero state di 17 e mezzo a 13 e mezzo, crescendo la proporzione e diminuendo la differenza a seconda che si aggiungessero anni futuri a piacere. Perché se la proporzione esistente nel 1883 fosse continuata immutabilmente, supponendo ciò possibile, fino all'attuale 1904, quando Stephen aveva 22 anni, Bloom ne avrebbe avuti 374. E nel 1920, quando Stephen ne avrebbe avuti 38, quanti ne aveva Bloom adesso? Bloom ne avrebbe avuti 646. E d'altra parte, nel 1952, quando Stephen avrebbe raggiunto l'età massima postdiluviana di 70 anni, Bloom, essendo vivo da 1190 anni, essendo nato nell'anno 714, avrebbe sorpassato di 221 anni l'età massima antediluviana, quella di Matusalemme, 969 anni. Mentre se Stephen continuava a vivere fino a raggiungere quell'età nell'anno 3072 anno Domini, Bloom sarebbe stato obbligato a restare in vita 83.300 anni, avendo dovuto nascere nell'anno 81.396 a.C. Quali eventi potevano annullare questi calcoli? La cessazione dell'esistenza di entrambi o di uno dei due, l'inaugurazione di una nuova era o calendario, l'annientamento del mondo e conseguente sterminio della specie umana, inevitabile ma imprevedibile. Su quanti incontri precedenti era fondata la loro preesistente relazione? 2. Il primo nel giardino dei lillà nella casa di Matthew Dillon, Villa Medina, Kimmage Road, Round Town, nel 1887, in compagnia della madre di Stephen, essendo allora Stephen cinquenne e riluttante a dar la mano per salutare. Il secondo nel caffè del Breslin Hotel, in una domenica piovosa del 1892, in compagnia del padre di Stephen e del prozio di Stephen avendo allora 5 anni di più. Accettò Bloom l'invito a pranzo, fatto allora dal figlio e ripetuto dal padre? Molto grato, con grato apprezzamento, con sincera gratitudine apprezzativa, con apprezzativamente grata sincerità di rammarico, egli declinò. Rivelò la loro conversazione sull'argomento di queste reminiscenze, un terzo anello di congiunzione tra di loro? Mrs. Riordan, Dante, una vedova finanziariamente indipendente, aveva risieduto in casa dei genitori di Stephen dal 1 settembre 1888 al 29 dicembre 1891 e aveva anche risieduto durante gli anni 1892, 1893 e 1894 al City Arms Hotel, proprietà di Elizabeth O'Dowd, 54 Prussia Street, dove, durante parte degli anni 1893 e 1894, essa era stata costante informatrice di Bloom, che risiedeva anche lui nello stesso albergo, essendo a quell'epoca impiegato da Joseph Caffey, al numero 5 di Smithfield, come sovrintendente alle vendite nell'adiacente mercato del bestiame di Dublino, nella strada di circonvallazione nord. Aveva egli fatto qualche opera particolare di carità corporale per lei? L'aveva qualche volta spinta nelle calde sere d'estate, vedova inferma, di mezzi indipendenti, seppur limitati, nella sua carrozzella da convalescente, con lente rivoluzioni delle sue ruote, fino all'angolo della strada di circonvallazione nord, di fronte ai locali dell'ufficio di Mr. Gavin Law, dove era rimasta per un certo tempo a scrutare attraverso il suo binocolo da campagna a lente unica cittadini irriconoscibili su tramvai, biciclette da turismo munite di gomme pneumatiche gonfiate, vetture di piazza, tandem, landò privati e pubblici, carrozzini, carrettine e breaks che andavano dalla città a Phoenix Park e viceversa. Perché poté egli sopportare quella sua vigilia con la più grande equanimità? Perché, nel fiore della giovinezza, era spesso rimasto seduto a osservare attraverso un tondino di vetro di finestra convesso e multicolore lo spettacolo continuamente variato della strada davanti a sé. Pedoni, quadrupedi, velocipedi, veicoli che passavano lentamente, velocemente, regolarmente, in tondo, in tondo, in tondo, all'orlo di un tondo e tondo globo precipite. Quali distinti ricordi diversi aveva ognuno dei due di lei ormai defunta da 8 anni? Il più anziano, le sue carte da bazzica e gettoni, il suo Skye Terrier, la sua presunta ricchezza, le lacune della sua memoria e l'incipiente sordità catarrale. Il più giovane, la sua lampada a olio di colza davanti alla statua dell'Immacolata Concezione, le due spazzole, una verde e una marrone, per Charles Stuart Parnell e Michael DeWitt, le sue veline. Gli era rimasto nessun mezzo di ottenere quel ringiovanimento che queste reminiscenze partecipate a un compagno più giovane rendevano tanto più desiderabile. Gli esercizi di ginnastica da camera, compiuti prima intermittentemente, abbandonati susseguentemente, prescritti da La forza fisica e come la si ottiene di Eugene Sandow, i quali, destinati particolarmente a coloro che sono costretti a un lavoro sedentario, dovevano essere fatti con concentrazione mentale davanti a uno specchio, in modo da far entrare in azione i vari fasci muscolari e produrre successivamente una piacevole rigidità e un più piacevole rilassamento e un piacevolissimo ripristino di agilità giovanile. aveva avuto una qualche speciale agilità nella sua prima giovinezza. Per quanto il sollevamento dei pesi fosse stato al di sopra delle sue forze e la gran volta alla sbarra al di sopra del suo coraggio, pure quando era allievo di scuola superiore aveva eccelso nella stabile e protratta esecuzione della capovolta sulle parallele, in conseguenza dell'anormale sviluppo dei suoi muscoli addominali.